9 in punto. Buongiorno, buongiorno, eccoci qua, buongiorno da Gianfranco Fabi. Oggi parliamo a 9 in punto di legalità, legalità come elemento essenziale della vita sociale e legalità come elemento di fondo della vita collettiva che definisce anche la libertà delle persone, che definisce anche la possibilità di un paese di essere civile. Ne parliamo, l'occasione è data dal premio Giorgio Ambrosoli che viene consegnato questa sera, ci sarà questa sera al Piccolo Teatro di Milano la cerimonia di premiazione e questa mattina all'Università Cattolica di Milano c'è una tavola rotonda dalla responsabilità sociale d'impresa alla responsabilità sociale delle istituzioni. Legalità e responsabilità, un tema che non è solo teorico, è un tema che attraversa tutta la nostra vita. L'Italia purtroppo è agli ultimi posti nelle classifiche non solo della libertà economica ma anche della legalità, anche della presenza della corruzione e dell'illegalità all'interno della società, e quindi riflettere su questi temi vuol dire cercare di fare dei passi avanti per una società più giusta, per una società che sappia aprire le porte a una competizione vera, fondata sul merito, fondata sul rispetto delle persone, fondata sul rispetto delle regole. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i messaggi SMS. Saluto Paolo Bertacini Bonoli, buongiorno. Buongiorno a te Fabio e a tutti gli ascoltatori. Studioso di storia delle istituzioni, docente universitario, coordinatore, ideatore del premio Ambrosoli, e saluto anche Mario Carlo Ferrario, buongiorno. Buongiorno a tutti. Presidente del comitato etico di AIFI, l'associazione del private equity e del venture capital, parleremo di finanza, la finanza è un ambiente in cui le regole sono fondamentali. Ma Paolo Bertacini Bonoli, il premio Giorgio Ambrosoli, lo ricordiamo, è stato un avvocato che è stato assassinato l'11 luglio del 1979, era il liquidatore della banca privata italiana, il cuore dell'impero di Sindona, è stato assassinato proprio per la sua opera che portava a galla, appunto, senza fare sconti a nessuno, quella che era uno dei luoghi, appunto, del malaffare di quel tempo. Un eroe borghese, lo definì Corrado Staiano in un bel libro del 1991, un eroe borghese che viene ricordato oggi come si farà, come si è fatto l'anno scorso, come si farà nei prossimi anni con questo premio Giorgio Ambrosoli. Perché il premio Giorgio Ambrosoli, Paolo Bertacini Bonoli? Ancora saluti a tutti. Il premio Giorgio Ambrosoli nasce con un obiettivo molto preciso, che è quello di far emergere il bene, che pur in un contesto così difficile e denso di problematiche, come tu stesso hai detto poc'anzi, anche l'Italia è densa, pratiche professionali appropriate, persone che purtroppo in contesti difficili riescono però a esprimere davvero comportamenti molto molto virtuosi, sia nel mondo delle pubbliche amministrazioni che in quello del settore privato. Il premio dunque non è una, diciamo così, commemorazione fine a se stessa, ma è mettere in campo la figura e l'operato di Giorgio Ambrosoli in chiave contemporanea per evidenziare quanto di positivo avviene tutti i giorni nel nostro paese e per supportare coloro che effettivamente stanno seguendo questi percorsi di tutela della legalità pure in contesti molto molto difficili. Molto importanti, e così concludo, sono anche i soggetti promotori che proprio stanno a testimoniare la volontà del premio di essere efficace sul presente e sul futuro. Intanto Transparency International Italia, l'associazione che aderisce al network internazionale globale leader nella lotta contro la corruzione, a partire soprattutto dall'opera della sua presidente Maria Teresa Brassiolo. Da anni Transparency International Italia è efficacissima nell'ambito di collaborazioni sia col settore privato che col mondo delle istituzioni, opera in questo senso. Poi ovviamente la famiglia Ambrosoli, di cui basti dire l'impegno che Umberto come persona, ma Anna Lori, la moglie di Giorgio, da anni stanno appunto mettendo sul versante dell'impegno civile. E poi terzo rilevante partner è il sistema di Confcommercio che da anni, in particolare attraverso il suo presidente Luca Squeri della Commissione Legalità, sta cercando, parallelamente a quello che sappiamo anche tutto il sistema della del sindacato di impresa, tra cui la stessa Confindustria, sui temi della legalità e quindi dei mercati correttamente regolati come dicevi tu, è impegnata. Ecco, quindi un premio che è un riconoscimento a un'opera positiva, la legalità è indubbiamente il terreno di fondo, direi la condizione normale in cui dovrebbe svolgersi la vita economica, sociale e civile, ma è anche importante sottolineare chi si opera attivamente per far rispettare questa legalità, per dare degli esempi di moralità, degli esempi, ecco, bisognerebbe premiare la grandissima maggioranza degli italiani, questo è indubbio, ma anche portare alla ribalta degli esempi in cui in situazioni particolarmente difficili vengono appunto difesi anche con grandi costi personali, difesi questi principi di legalità è certamente importante. Allora possiamo ricordare come nell'edizione 2013, quella che questa sera avrà il suo punto di massima espressione con la cerimonia di premiazione, la giuria conferirà 3 menzioni speciali a Antonino De Masi, imprenditore di Gioia Tauro, costretto a vivere sotto scorta per le minacce e le intimidazioni della criminalità organizzata, a Maria Carmela Lanzetta, sindaco di Monasterace, in provincia di Reggio Calabria, impegnata da oltre 30 anni nel territorio per la difesa e il rafforzamento della legalità, ma non solo Mezzogiorno, e anche a Mariangela Zaccaria, ex direttore del settore gare e appalti del Comune di Milano e attuale vice segretario comunale, perché la difesa della legalità è una difesa che deve essere a 360 gradi, appunto con un impegno costante e attento. Perché queste tre menzioni, Paolo Bertaccini Bonoli? L'anno scorso, ricordo, il premio era stato dato a Mario Sarcinelli, collaboratore di Paolo Baffi, che era stato ingiustamente accusato, poi ampiamente scagionato durante appunto inchieste giudiziarie che si riferivano agli anni 80. Perché queste tre menzioni, Paolo Bertaccini Bonoli? Le tre menzioni fanno parte appunto di una coerente visione del premio da parte del comitato promotore. Se l'anno scorso era stato assegnato a Mario Sarcinelli in quanto, diciamo, figura simbolica, una delle figure simboliche della vicenda appunto stessa dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, quest'anno si è valutato da parte della giuria di evidenziare invece attraverso lo schema delle menzioni speciali coloro che sono più attivi nella contemporaneità. Quindi il premio da una parte ricerca casi di eccellenza però già sufficientemente storicizzati e dunque anno dopo anno valuterà delle situazioni storiche italiane che meritano di essere appunto portate all'attenzione e valorizzate. Dall'altra invece continuativamente ogni anno attraverso le menzioni speciali valorizzerà l'operato di chi è, diciamo, in trincea, e in questo senso non casualmente si sono scelte 3 figure, una un imprenditore, Masi, un funzionario pubblico, la dottoressa Zaccaria del Comune di Milano, un sindaco, quindi un politico, perché anche i politici sono in tanti a svolgere al meglio il loro mestiere, e quindi abbiamo voluto da parte della giuria evidenziare che in questi 3 ambiti ci sono pratiche virtuose che meritano di essere valorizzati. Non casualmente, così concludo, abbiamo anche, diciamo, avviato un dialogo importante fra Nord e Sud Italia rispetto a questi temi. Ecco, si vogliono portare alla ribalta questi che vengono chiamati questi eroi invisibili, queste persone che senza appunto cercare pubblicità però portano avanti nel loro impegno una battaglia sicuramente di prima linea in questa sfida della legalità. Oggi parliamo del premio Ambrosoli, ma sono molte fortunatamente le iniziative che in Italia cercano di far riflettere, cercano di portare alla ribalta questi temi e di far sì che ci sia una coscienza collettiva che sappia espellere dal paese l'illegalità, che sappia espellere la corruzione, che sappia espellere i modi, diciamo, anche solamente furbi di fare società, di fare economia. Per esempio, ve ne cito uno: dal 29 luglio al 2 agosto la città di Caserta ospiterà l'iniziativa Legalità, protagonisti nella nostra terra, 4 giorni di workshop con spazi dedicati al dialogo e al confronto sugli ambienti di lavoro, sull'accoglienza, con 600 giovani provenienti dal sud e dal nord Italia, promosso dal Movimento Internazionale Giovani per un Mondo Unito dei Focolari, con associazioni e movimenti quali Libera, Lega Ambiente, Fare Ambiente, Comitato Don Beppe Diana, Fondazione delle 4 Stelle, Libero Pensiero. Ecco, molte associazioni, vi ricordo, Legalità dal 29 luglio al 2 agosto nella città di Caserta. Mario Carlo Ferrario, presidente del Comitato Tecnico di AIFI, l'associazione del Private Equity e del Venture Capital, il mondo della finanza è particolarmente attento e direi interessato al metodo della legalità. Certamente sì, perché in finanza vige una regola, soprattutto quando parliamo di finanza e di investimento, che si può sbagliare una volta sola, perché noi investiamo, i fondi investono i soldi di altri, i soldi dei, per esempio dei fondi pensioni, i soldi dei risparmiatori, e quando uno sbaglia può sbagliare una volta sola, poi non ha più possibilità di rientrare. Per questo l'attenzione alla legalità in tutte le sue forme pratiche è molto vissuta e molto attenta. Parlo di verità in chiave pratica perché io credo che sia un errore facile e naturale, ma un errore parlare di legalità in termini valoriali. La legalità va praticata giorno per giorno, la legalità è la modalità di espressione di questi valori nella propria realtà quotidiana. Quindi per noi legalità è in primo luogo professionalità. Gli esempi che citavamo prima, che sono i vincitori quest'anno del premio Ambrosoli, sono esempi di professionalità, gente che ha fatto prevalere la propria professionalità, la professionalità del proprio mestiere su delle scorciatoie possibili o su degli interessi divergenti o di altro tipo, per non parlare addirittura di fatti criminali. Quindi legalità e professionalità sono due concetti inscindibili, di cui spesso però in Italia si dimentica perché si preferisce parlare di valori in termini un po' generici, un po' quasi fumosi. Quando parliamo della pubblica amministrazione, per noi legalità è in primo luogo ancora governance, è conflitto di interessi, è trasparenza, è tracciabilità, è procedure. Sono questi gli elementi che fanno poi alla fine lo Stato di diritto. E questo è uno dei problemi che in Italia rende difficili gli investimenti esteri. Noi abbiamo tante leggi, parliamo tanto di legalità, ma abbiamo poche pratiche, poche prassi che vanno in questa direzione, per cui c'è incertezza di diritto, anche nell'applicazione di queste leggi c'è molta incertezza, e questo tiene lontano gli investitori. Non dobbiamo mai dimenticarlo, che una delle prime ragioni per cui qualcuno investe è avere la certezza di poter vedere nel tempo i ritorni del proprio investimento. Se c'è instabilità, instabilità giuridica in primo luogo, instabilità di comportamenti, instabilità di regole, uno preferisce evitare e astenersi. Ecco, mi sembrano due punti molto importanti che ha sottolineato Mario Carlo Ferrario, cioè il punto della responsabilità, verso chi opera all'interno del mercato finanziario, chi opera per intermediari. Si è detto spesso proprio tra le cause della crisi finanziaria l'illusione di poter fare i soldi con i soldi degli altri, cioè fare i soldi con i soldi, e quindi cercare delle strade strettamente speculative per la finanza, distaccandola sempre più dall'economia reale. E la riflessione altrettanto importante sulla professionalità collegata alla responsabilità e sul fatto che le regole non devono essere una copertura, rispettare le procedure in maniera astratta può essere una copertura per la mancanza di responsabilità. Le regole vanno rispettate, ovviamente bisogna anche aiutare la società a cambiare le regole che possono essere cambiate, a rispettare appunto la libertà di ciascuno all'interno di un sistema giuridico che possa in questo senso mantenere la dinamica sociale, la dinamica soprattutto economica, e quindi una dinamica economica che vuol dire anche creazione di posti di lavoro, che è quello che ci vuole in questa fase. Ecco, Mario Carlo Ferrario, in questo senso la finanza può tornare ad essere, diciamo, l'ancella costruttiva dell'economia reale? Certamente sì, soprattutto la finanza di investimento, di cui noi ci occupiamo in prima tutta come AIFI. Investire significa creare nuove aziende, creare opportunità, creare sviluppo, aiutare le aziende a crescere internazionalizzandosi, per esempio, grazie a dei network internazionali, creare le aziende a svilupparsi sviluppando nuovi prodotti, nuovi mercati grazie alla tecnologia, questo è il ruolo del venture capital. Lavorare con le università perché dalle università escano nuovi processi, nuove idee, nuovi prodotti che poi si possono trasformare in beni da produrre e quindi per creare nuove aziende. Queste sono le attività che la finanza può fare e fa, ma non è solo una questione di soldi, su questo io vorrei insistere, è una questione molto anche di diritto. In che senso? Nel senso che fare investimenti significa avere delle certezze, significa avere la possibilità di sapere che ci sono delle regole e queste regole non cambiano. Uno dei problemi che noi abbiamo in Italia, ed è un problema che non costa cambiare, è quello dell'eccesso di legislazione. Troppa legislazione, ricordava Raymond Aron, un grande sociologo delle organizzazioni francese, nel suo fenomeno burocratico, crea incertezza, e l'incertezza è potere. Quello che fanno i burocrati è creare aree di incertezza, perché così massimizzano il loro potere. In questo modo però si frena gli investimenti, si frena lo sviluppo, si frena la possibilità quindi di creare impresa e lavoro. Per cui dobbiamo lavorare nel dare certezze. Certezze sono esattamente il contrario della possibilità di trovare percorsi alternativi, di svicolare, di corrompere. Se ci fossero poche leggi chiare, sarebbe molto più semplice creare nuove realtà economiche. È un punto di fondo è anche delle leggi fatte rispettare e in cui l'esecuzione anche delle pene o dei risarcimenti sul fronte del diritto civile deve essere importante. L'Italia ha dei tempi lunghissimi per la giustizia civile, ha dei tempi molto lunghi per rendere efficaci anche le sentenze, non solo per arrivare a sentenza ma anche per eseguire queste stesse sentenze, per esempio per restituire un bene ad una persona a cui è stato sottratto. La giustizia deve essere qualcosa, e lo chiedo ancora a Mario Carlo Ferraio, qualcosa che funziona nel suo complesso. In Italia ci sono ancora molti passi avanti da fare. Certamente sì, purtroppo in tutte le classifiche e in tutti i rapporti l'Italia e la giustizia italiana non figura in posti accettabili, direi, per un paese moderno come il nostro. Ma non è solo una questione di tempi della giustizia, è una questione anche di interpretazione delle norme e delle leggi. Spesso si confonde quella che è l'autonomia e l'indipendenza del magistrato con l'interpretazione. La giustizia non è di questo mondo, si diceva una volta. In effetti, quando io studiavo diritto mi dicevano la magistratura non deve fare giustizia, deve applicare la legge. E questa è una grossa verità. Si confonde quello che può essere il desiderio di esprimere dei propri valori di quello che potrebbe essere equo e giusto rispetto all'applicazione della legge. Ma in una società democratica quello che conta è la certezza che la legge venga applicata nello stesso modo, negli stessi tempi, con le stesse coerenze, attraverso un processo ovviamente di autonomia e indipendenza del magistrato nel valutare il caso specifico, ma secondo regole ermeneutiche chiare e inamovibili. Ecco, forse oggi ci sono in Italia troppe libertà rispetto a queste regole interpretative che rendono ancora più incerto il diritto. E torniamo al discorso di prima, l'incertezza è contraria allo sviluppo e all'investimento. Ecco, appunto, riflettere su questi temi, sulla certezza del diritto, ma anche su un diritto che sia facile, semplice, comprensibile, immediatamente eseguibile, da essere rispettato da parte dei cittadini, da parte delle imprese, è un passo fondamentale. Riflettere su questi temi non è fare aria fritta, come ci dice un ascoltatore, il nostro 349-238-6666, ma è guardare alla realtà della nostra società e all'impegno che ciascuno può e deve avere. Ognuno al proprio posto, ognuno secondo la propria responsabilità, perché se ognuno farà la propria responsabilità sicuramente la società potrà avere, e non è solo un'utopia, una dinamica migliore, una dinamica migliore per tutti. 9 in punto. Bentornati a 9 in punto, 349-238-6666 per i messaggi sms, 800-2400-24 il numero verde. Parliamo della sfida della legalità, una sfida importante all'interno della società italiana che sta cercando di ritrovare una strada per la crescita economica e anche per ritrovare una strada di crescita della società civile. E ci sono molte iniziative, abbiamo parlato del premio Giorgio Ambrosoli che verrà consegnato questa sera, e volevo segnalare anche un'iniziativa del Comune di Milano che ha adottato nei giorni scorsi una mozione in cui si adotta uno strumento per garantire l'anonimato a chi segnalerà all'interno dello stesso comune dei reati o dei fatti di corruzione. Abbiamo in linea David Gentili, buongiorno. Buongiorno a voi. David Gentile, consigliere del Partito Democratico e presidente della Commissione Antimafia del Consiglio Comunale di Milano. Rapidamente, in che cosa consiste questo nuovo strumento di garanzia? Allora, è una procedura che è stata suggerita da Transparency International, procedura adottata in alcuni paesi scandinavi, anglosassoni, anche in Polonia, adottata anche nelle aziende private, che permette di trovare un luogo nell'intranet, diciamo, del Comune di Milano in cui fare delle denunce di comportamenti reato o comportamenti a rischio reato. Queste denunce possono essere anche anonime e queste denunce vengono raccolte da un organismo di garanzia che può interloquire col segnalante anche se anonimo consegnando a lui un codice che lui può usare per dialogare e per meglio circostanziare la segnalazione. Ecco, quindi non c'è il rischio di qualche vendetta trasversale? Il rischio è presente e noi ne siamo tutti consapevoli. Purtroppo in Italia prevale una cultura omertosa piuttosto che la cultura civica della denuncia, e quindi dobbiamo trovare diversi stratagemmi. Transparency ci illumina su questo percorso per stimolare le persone e soprattutto per proteggerle. La 190, la legge anticorruzione, ha previsto un comma proprio per difendere le persone delle amministrazioni pubbliche che segnalano comportamenti illeciti, difenderle da demansionamento, difenderle da mobbing, difenderle da tutta una serie di azioni che possa essere messa in atto contro chi denuncia, il proprio dirigente o il politico. Ecco, quindi può essere una misura quasi da deterrenza di fronte alla possibilità che ci possa essere una denuncia. Qualcuno può essere appunto portato a rinunciare degli atteggiamenti illegali. Sì, e noi speriamo che abbia anche questa funzione di deterrenza e di prevenzione anche. L'anno scorso è successo un fatto abbastanza emblematico, purtroppo un dirigente del Comune di Milano è stato arrestato, e se alcuni dipendenti pubblici avessero segnalato un comportamento che dagli atti processuali è emerso come assolutamente improprio, si sarebbe potuto addirittura prevenire l'atto che viene imputato alla persona di corruzione e turbativa d'asta. E anche segnalazioni di comportamenti impropri possono essere utili proprio per dare la possibilità all'organismo di garanzia di fare le indagini necessarie per anche prevenire il fenomeno reato. Ecco, la prevenzione è un elemento estremamente importante, perché è molto meglio prevenire, e non è retorica, prevenire che poi punire. In questo senso, dotarsi di strumenti che andranno appunto verificati, e anche qui si tratta di fare forse una sperimentazione. Grazie a Davide Gentili di essere stato con noi. Sentiamo un paio di ascoltatori. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno Marco da Roma. Sì, ci dica. Mi occupo appunto come rappresentante sindacale di una lotta continua nell'ambito della mobilità contro l'illegalità e l'abusivismo. Ho sentito cose interessanti, ovviamente, denunce e quant'altro, però l'impressione che in questo momento preciso, storico, in cui versa il Paese, ci sia da parte un po' di tutte le autorità, anche in qualche modo la volontà di tollerare, cioè c'è una tolleranza che scoraggia, nel senso che le denunce vengono fatte giornalmente, denunce di tutti i tipi, però c'è sempre questa tolleranza e una mancanza di controllo sul territorio. Ecco, dunque la domanda è: com'è possibile riportare legalità, rispetto delle regole, quando poi il braccio della legge, cioè quello che poi fattivamente fa i controlli, in qualche maniera tollera? Ecco, la tolleranza è un atteggiamento sicuramente di fondo che facilita poi la corruzione, facilita l'illegalità, e anche su questo è necessario forse riflettere come atteggiamento delle persone, come atteggiamento dei cittadini. Mario da Udine, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei dire due cose, insomma, mi sembra che sia come questa qui la legalità, fare sempre delle leggi nuove, ampliare in maniera di creare sempre dei nuovi reati, in maniera che il tutto si ingarbugli sempre di più. Basterebbe essere avere un po' più di buon senso e applicare la legge del taglione, e vedremo dei risultati in breve tempo, secondo me. Grazie, il suo buon senso e la legge del taglione non vanno forse molto d'accordo, ma riprendiamo la sua riflessione sul fatto che non è questione di fare nuove leggi, si tratta soprattutto di riflettere sui comportamenti delle persone, di riflettere sul fatto di come i comportamenti che possono in qualche modo, anche come diceva l'ascoltatore precedente, creare un clima di tolleranza che è già un terreno fertile su cui poi può nascere la realtà. Ma saluto anche Valerio Castronovo, buongiorno. Buongiorno. Valerio Castronovo, storico dell'economia, presidente degli studi storici Salvemini di Torino, questa sera nell'ambito del premio Ambrosoli parlerà appunto di esempi di legalità. Allora, brevemente, Valerio Castronovo, della storia economica, ecco, non vogliamo fare una storia economica in tre minuti, ma quasi, però com'è importante il tema della legalità nello sviluppo dell'economia? Ma intanto io vorrei dire che la vicenda esemplare quanto tragica di Giorgio Ambrosoli, che per non aver abdicato ai suoi principi di moralità e di diciamo responsabilità professionale ha sacrificato anche la sua vita, secondo me ha concorso, almeno ha contribuito a creare nel nostro paese, nella cultura sociale, nell'opinione pubblica, diciamo l'esigenza, una maggiore consapevolezza di regolare il rapporto fra politica ed economia, fra interessi privati o di categoria e interesse pubblico, in base a norme più efficaci, più coerenti. E questo è importante perché in un paese come il nostro, che dove in pratica era e da sempre scarso, se non inconsistente, il senso civico, il senso un'etica pubblica, è stato molto importante certamente questo esempio, e in effetti si potrebbero rintracciare tutta una serie di sviluppi, di svolti che hanno preso poi, che sono manifestati proprio in seguito a questo luminoso quanto drammatico esempio di Giorgio Ambrosoli, e non soltanto diciamo nell'ambito di una lotta più energica contro le cosche mafiose, i loro addentellati, ma sul piano appunto dell'etica degli affari, perché poi questo è uno dei temi, degli elementi costituenti, dei cardini fondamentali di un'etica pubblica in via generale. Per quanto riguarda diciamo gli esempi che si possono fare, purtroppo nel nostro paese, devo dirlo, questo non è mai maturata un'effettiva coscienza, insomma, nell'ambito della collettività, un'effettiva coscienza dell'esigenza appunto di un'etica pubblica, del rispetto delle regole, del senso dello Stato e delle istituzioni. E quindi si potrebbero fare certamente alcuni esempi in un mare di un susseguirsi di episodi scandalosi, di trasgressioni, di abusi, di corruzioni, di episodi di subornazione. La nostra storia purtroppo è densa, no, di episodi del genere, di illeciti e comportamenti illegali. Io citerei tre esempi. Uno, quello di Quintino Sella, risalgo molto indietro, ma mi sembra molto significativo, che nel 1862, assumendo il Dicastero delle Finanze, si impegnò attraverso una scrittura pubblica, impegnò lui e i suoi fratelli, con proprietari di un lanificio a Biella, a non stabilire alcun rapporto con lo Stato. E così fece nel 1865, quando riassunse il Dicastero delle Finanze, e disse allora chiaramente ai propri elettori: guardate che evadere le tasse è un furto ai danni dello Stato, e anche in un paese cattolicissimo come questo, chi evade il fisco non può pensare di essere assolto quando va a confessarsi in chiesa anche da questo peccato. Un altro esempio, secondo me, di grande dirittura morale, di alto senso, di alto magistero dello Stato è stato quello di Luigi Einaudi. Se non che Einaudi concludeva amaramente i suoi sermoni, i suoi appelli all'etica pubblica, a un maggior senso dello Stato, a una cultura non omertosa e a una gestione limpida, diciamo, della cosa pubblica, annotando che le sue erano state delle prediche inutili, per riassumere e sintetizzare il titolo poi di alcuni suoi interventi. Un'altra personalità, un altro personaggio che secondo me è esemplare, dovrebbe essere preso appunto ad esempio, è quello di Donato Menichella. Donato Menichella, che fu direttore dell'IRI negli anni 30, scongiurò la svendita delle aziende pubbliche risanate dallo Stato ad alcuni gruppi industriali che le avrebbero potute acquistare a prezzi stracciati, e in quel periodo lui si dimezzò il suo stipendio di direttore generale e così pure si dimezzò la sua pensione quando nel 1960, dopo 12 anni in cui fu governatore della Banca d'Italia, insomma giunse il momento di andare in pensione, osservando adesso che sono molto più anziano non ho bisogno appunto di molti emolumenti. Ecco, grazie, grazie Valerio Castronovo, Quintino Sella, Luigi Einaudi, Donato Menichella, tre esempi appunto di statisti, di persone di Stato che ponevano l'interesse dello Stato prima del proprio interesse, e allora non si parlava di conflitti di interesse di cui si parla molto in questo periodo. 9 in punto. Qua per l'ultima parte di 9 in punto stiamo parlando della sfida della legalità. Ringraziamo Valerio Castronovo che ci ha parlato appunto della legalità della storia con tre esempi: Quintino Sella, Luigi Einaudi, Donato Menichella. Donato Menichella che chiese appunto allo Stato di ridursi la pensione quando lasciò appunto gli incarichi, dicendo che poi da anziano non aveva più così tanti bisogni come prima. Ecco, un esempio indubbiamente che può valere per qualche pensionato di lusso di oggi. E sentiamo qualche ascoltatore prima di concludere con Mario Carlo Ferrario e Paolo Bertaccini il nostro incontro. Alberto da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Niente, io sono un imprenditore turistico e abbiamo in pratica un classico esempio di, secondo noi, di abuso di potere da parte degli uffici tecnici comunali, nel senso che noi abbiamo delle concessioni demaniali sulle quali puntualmente il tecnico comunale dice che sono annuali, quando invece il demanio, la capitaneria di porto eccetera dicono che no, sono state rilasciate per fino alla scadenza naturale dei 5-6 anni, e questo tecnico puntualmente tutti gli anni a giugno, quindi all'inizio della stagione, si inventa: forse devo chiedere il parere a quello, forse devo chiedere il parere a quell'altro. Morale, noi non possiamo mai essere sereni né verso i nostri clienti garantendogli un certo servizio, piuttosto che, e quindi poi siamo sempre soggetti a ricatti continui. Poi puntualmente verso la metà di luglio, come per magia, tutto non era dovuto, è tutto normale, eccetera, eccetera. Ecco, quindi l'interpretazione della legge, quando la legge è complessa, quando la legge si presta a interpretazioni diverse. No, la legge è molto chiara, è il tecnico comunale che secondo lui, e per eccesso di zelo, comincia a chiedere pareri su pareri, eccetera, eccetera, e ogni anno chiede sempre le stesse cose, sempre quello. Grazie di questa testimonianza, Alberto da Roma. Gianfranco da Cosenza, buongiorno. Buongiorno a voi. Ascolti, io volevo ribadire quello che è stato detto precedentemente. Io credo che per il nostro paese la cosa più importante sia quella di diminuire al minimo il numero delle leggi esistenti, mentre quelle poche che dovranno rimanere in vigore dovranno essere riscritte in maniera talmente chiara da non essere più lasciata la libera interpretazione o dei giudici o degli avvocati. E inoltre basterebbe anche sostituire il nostro sistema giudiziario, che è lento e faraginoso, con uno più rapido, come in Germania, come in Francia, come in Inghilterra. Altrimenti tutte le altre soluzioni si impantaneranno in quello che è un sistema che sinceramente è troppo corrotto. Grazie mille. Due proposte sicuramente ambiziose. Cambiare il sistema giudiziario non è una cosa facile, peraltro il sistema giudiziario ha anche tanti meriti, e rendere le leggi molto più facili è sicuramente una strada da intraprendere, ma anche qui non è certo una strada facile. Mario Carlo Ferrario, presidente del comitato etico di AIFI, Associazione del Private Equity del Venture Capital. Abbiamo troppe leggi, abbiamo troppe possibilità di interpretazione in questo paese. Sentendo anche i commenti del pubblico, certamente sì, è un'esperienza quotidiana, credo, se non di tutti, di molti, ma di moltissimi. C'è un eccesso di legislazione, c'è un eccesso di di enti competenti sullo stesso problema. Spesso la legislazione fa sì che una stessa problematica si deve occupare più enti. Questo comporta un ulteriore livello di complessità, un ulteriore livello di incertezza, un ulteriore livello di interpretazione. Sicuramente una deregistificazione e una semplificazione e chiarezza delle competenze sarebbero un elemento che porterebbe sviluppo e investimenti in questo Paese. Ma il secondo commento lo vorrei fare riferito proprio alla pubblica amministrazione. Sappiamo che la pubblica amministrazione, quando c'è incertezza, ha atteggiamenti che aumentano il proprio potere di intermediazione e quindi rischi di corruzione. Quindi una delle cose da fare, a mio avviso, sarebbe quello di dare delle procedure certe e trasparenti e tracciabili per tutti gli atti della pubblica amministrazione, cosa non difficile, basterebbero che gli stessi dirigenti dei vari enti e dei vari ministeri si dessero per le proprie attività dei tempi certi, per fare questo atto 30 giorni, per fare questo 60, per fare questo 90, dopodiché ne devono rispondere. Ecco, se togliessimo l'incertezza primaria, che è quella del tempo, quando uno ha a che fare con la pubblica amministrazione non sa cosa succederà, ecco, non sa quando lo pagheranno, ma non sa neanche quando otterrà un provvedimento. Indubbiamente, quello del tempo deve essere una certezza proprio per garantire quella chiarezza anche di chi fa affari, di chi fa business, di chi fa economia. Avere a che fare con l'amministrazione per le imprese italiane è sempre complesso e lamentano il fatto che per avere un'autorizzazione anche solo per ampliare di qualche metro un capannone passano dei mesi, passano degli anni, mentre in altri paesi le procedure sono molto più semplici. Paolo Bertacini Bonoli, in due minuti per concludere questa nostra osservazione che poteva sembrare magari un po' retorica, magari un po' di fondo, ma che invece è estremamente concreta perché riguarda la vita di ciascuno di noi, l'importanza della legalità, l'importanza del rispetto delle regole, l'importanza della partecipazione sociale, direi soprattutto. Paolo Bertacini Bonoli. Caro Fabi, mi aggancio appunto a questa espressione, l'importanza della partecipazione sociale. Il tema della legalità, dello Stato di diritto nel nostro Paese, come in qualunque altro, è ovviamente una sfida multisfaccettata e sono tutti i soggetti che devono impegnarsi in questa direzione. Forse vale la pena appunto sottolineare, e questo è molto in linea con il pensiero sicuramente sia di Giorgio Ambrosoli, sia della nostra Presidente di Transparency International Italia Brassiolo, sia di coloro che operano all'interno del premio Giorgio Ambrosoli, sottolineare il ruolo della società civile, il ruolo di ciascuno di noi nella nostra vita quotidiana e all'interno delle nostre attività professionali, quindi la responsabilità di tenere presente che lo Stato siamo noi, che la comunità è composta da noi stessi e quindi, e forse questo è uno dei vizi del nostro Paese, a fianco delle tante virtù che ben conosciamo, certo, ma uno dei vizi è quello di immaginare lo Stato fuori da noi come un interlocutore, come talvolta spesso una controparte. Ecco, infatti, però bisogna costruire questa capacità di vedere lo Stato come nostro e deve essere qualcosa che si muove sui due fronti. Pensiamo, noi facciamo la nostra parte, speriamo che anche l'amministrazione faccia la sua parte. Grazie a chi ci ha seguito, grazie a Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, l'appuntamento è per domani. Ricordati! Mancano 7 giorni all'aumento dell'IVA. 9 in punto.